Lucca? Beh, può comare. Era acceso qua e non è entrato nessuno ancora, ormai non dico niente, dai, ogni giorno dico la stessa cosa, oggi non dico niente. Tanto poco forte, tu vai, guarda, fammi la luce, dovrà essere qua l'acqua, e così ho fatto. Metterò che tra un po' esco. E niente, notte pizza. Leia, no, io sono tutto il giorno a casa. Oggi non sono uscito, dai. Magari sabato, anche se dovrebbe diventare brutto il tempo. Dobbiamo andare a mangiare in campagna, no? E se piove ce ne andiamo dentro. Cioè, voglio dire, siamo già dentro, no? C'è solo una grata che comunica con l'esterno, possiamo chiudere le porte, quindi non entra meno umidità. Però, sai, vabbè, noi ci pigliamo quello che capita, poi se piove è necessario che piova per i bacini. Se la prossima estate davvero andiamo in fila a piazzare segni, a pigliare l'acqua con i bidoni. No, vabbè, qua se ne va tipo adesso, dai. Arriva domani mattina verso le 6. Adesso provo a far chiamata, vediamo. Sono quasi le 6, meno 2 minuti. Natalino, ci sei all'ascolto? Ui, non ne vale più la pena di stare presso a questi baracchini. Ci dedicheremo ad altro. Sai cosa? Che baracchino, ma l'inverno è più piacevole, d'estate è proprio zero. Vabbè, adesso tutti hanno ripreso a lavorare, pochi vanno al mare per via il tempo, ma come vedi non entra nessuno lo stesso. E siamo a metà settembre. Pensa, metà settembre se n'è già andata. Era ieri che era l'1 settembre, siamo già al 15. Ma cosa vuoi? Ma se ci sono sempre io qua, ma cosa c'è? Cosa c'è? E non chiami mai. Cazzo, se sto arrivando adesso a casa da stamattina alle 6, ma cosa pensi? Io mi gratti le palle come te. Tu ti devi portare il baracchino in macchina, hai capito? Anche dall'Isola Rossa ci devi chiamare. Io mi posso portare a tua sorella in macchina, non il baracchino. Non ne ho sorelle, purtroppo. E allora il gravalice su Gurno. Allora vedi che c'è qualcuno che lucca. Ciao, allora io i miei impegni oggi, per esempio, ho uscito un lavorettino, l'ho già finito, domani lo consegno, qualcosina l'ho guadagnata, poi stamattina ho accompagnato la mamma all'ospedale a fare il controllo, diciamo che un po' mi sono alleggerito perché la macchina non fa né la mattina, né pranzo e né cena, non fa più insulina, prende solo una pastiglietta, adesso la prova solo per una settimana e fa solo quella della notte. E un po' mi ha alleggerito, la verità, così posso fare qualcosina di più, ecco. Se no mi tiene troppo occupato, mi chiama ogni volta. Sto meglio, diciamo, la provo, vediamo un po' come va questa glicemia. Se aumenta deve ritornare all'insulina. Se lei si fa da bravo e mangia il giusto, allora va così, con le pastiglie. Quello è un po' il problema di tutti, dai. No, Marconi, davvero, sto scherzando. Sono arrivato adesso, ho fatto un paio di passaggi su WhatsApp con Valerio, infatti mi ha detto, ma non c'è in radio, allora stavo rientrando. Ed ero lì nello scorrimento veloce di Caltezzato. Sto arrivando adesso, mi sono lavato, adesso mi do un'altra sistematina e poi sono qua, dai, non ti preoccupare. Ok, Natalino, non c'è? Non ancora, si stava mangiando tutti i pesci che ha preso ieri. Vai, venduti me li ho. Allora vedi che c'è, lui ascolta, ha le orecchie pelose come il sedere e non vuole entrare. Avete pescato ieri? Poca roba, perché dopo è entrata a corrente, 4 sara che io ho preso, 2 sorelle grandissime, grandi erano, là. Però la bise poi c'è stato se no e non mangiava più. Eia, va bene, c'è anche Natalino e Lucca. C'è pure quel popone, c'è, eh? Pure quello c'è. E parla con Mura adesso, parla. Ognuno falli su e parla bene, che io non sto parlando male, hai capito? Fuoco, uomane. Ma non c'è perché quel tuo ciabale è con un muro, eh? Dai, attimino che me la sento qua, perché mi devo vestire, così sono pronto. Io vado a prendere un altro lavoretto da fare. Sempre, sei anche a pompiere, dai. Eia. Molto bene. Vedi le lumache affiorano quando c'è umidità, dai. Entrano anche al baracchino le lumache. Bip. Oh. Allora, questo come sta andando? Bene, sì. Tu, sì. Ma pensavo già l'altra volta stava facendo quel problema. Forse l'avevi lasciato fermo per un po'. Fermo per un po', così mi avevi detto, mi pare, qualche giorno spento. Più di qualche giorno, avanti in bit. Permesso? Avanti, buonasera. Buonasera lì, come va, come va? Ehi Giulio, come va? Ande torra. Ande torra, come te lo dovevo buttare torra? Tu non cominci a vedere più. Non lo so, a proposito, entra il portatore. C'è ancora, fa la corsa. Domani sono. Fanno spettacolo con le moto, con la macchina, domani sera. Ah, ho capito, quel giorno è un spettacolo non viene. E beh Marco, buona serata. Ciao Giulio, ben entrato, dai. Insomma, in pochi minuti già sono entrati i soliti, dai, gli accoliti, i salvatori della frequenza, del canale 10. Guarda che sono qua io con la parete accesa dalle 4, ma non c'era nemmeno un'anima, nemmeno l'ombra dell'anima. Ciao Natali. Ciao Giù, io l'ho coricata a quell'ora, figurati un po', c'avevo la schiena a pezzi. Vabbè, domani vieni in bottega che te la collo. Ah vero mi, li puniamo due salventi. Allora, due salventi, se è necessario quattro vittime, e ripariamo bene. E allora, Luca, mi la buona anima di Luca, mi si è fatto presentire al baracchino. Impegni giù purtroppo, lavori, lavoricchiando, dai. Allora, se mi racconto quello che ho fatto lì a Sorso, per carità, un'antenna, la signora mi ha sventato il cervello, ha iniziato a dire che lì aveva il capo grosso, io ho comprato il capo sottile, gli ho fatto un preventivo, ho detto ci vuole tot, no? Mi ha comprato la matassa, l'ho presa in più, non ho preso un pezzo di filo, adesso a 50 metri per fare lavoro a lei, e mi fa dopo che il capo sottile non è buono, chiamava il figlio, qua e là, insomma, era un lavoro quasi finito, e alla fine, cioè, mi ha scombussolato, veramente, guarda, volevo mollare tutto e andarmene, solo che vabbè, ormai ero lì, l'altra già piazzata, quella nuova, la vecchia, ormai era distrutta, perché quando l'ho smontata mi è rimasta in mano, comunque, ma la favola voleva la rimanenza del capo, ho detto, ma lì sta scherzando, gli ho detto, gli ho fatto un preventivo, gli ho preso il tozzo e vuole pure il capo, tu le cose sono di miei, cosa c'entra? Io ho fatto un preventivo a lei, ma mai più da ora, da poi non è una critica per i sorsesi, ma sono frani, la categoria dei bassoni veramente frane, per carità, già lo so che sono così, e ne ho fatto io dei lavori a Sorso, ma guarda, intanto per convincermi ci vuole tutti gli istanti con tutte le candele accese. Perché non è possibile, va bene con coraggio, non è possibile. Se mi vieni a grido, mi quasi bisogno di buttare, va bene, contrattiamo, parliamo, stabiliamo cosa deve, cosa vuole, e quanto costa. Quando sto pagando andava in chitarra a voi, se ne vuoi andare a vedere, dirà, per carità, no. Poi magari veniva con l'altra del vicino. Vogliono buttare l'uomo, come te gli turisti da fianco a me, ma guarda lo vuoi, no, fa carità, e allora non lo vuoi come te gli turisti da fianco a me, te vuoi buttare, ma casa lui, amata, c'è gente strana, questo strano, ma non meglio parlare. Ma infatti io gli ho fatto due preventivi, uno gli è andato bene, poi mi rimarco, e gli ho fatto di manco. Cavolo, in più vuoi tirarci il cavo. Cioè, gli ho dovuto fare un'altra calata, siccome c'era un miscelatore, un amplificatore, due uscite, di cui una andava a camera da letto e l'altra andava in cucina. No, aspetta, sto dicendo. No, una in cucina e una in soggiorno, scusa. E ho fatto un'altra calata di altri 15 metri circa, cose da fatti veramente, che fate un giro ultrano, vabbè. Comunque, diciamo che, guarda, mi sono bruciato anche un trapano, perché non sono riuscito a bucare un muro da 50, muri vecchi sono quelli, non ce l'ha fatta, vabbè, un trapano da Viciti, comunque mi ha fatto un po' di anni. Non li vado manco io che sono qua, che ho Montevo di fronte, purtroppo se va a contentare. Prima curia solo, arrai media, se ti ho iniziato, e non vuoi chisto, e non vuoi chisto, e non entro un mucco, e dico non mucco, e ecco, signora, si mette la rima in faccia, si tenga i canali che ci sono. Luca, stavi parlando di un cavo, ma che cavo antenna hai messo? Il SAT? Con il ripetitore. Sì, SAT. Perché non è come quello di Sassari, non è che vuoi puntare a Sassari, deve puntare a Segnoli, è da un diverso colore, pure un diverso colore anche. Ma comunque a parte di ciò, ce ne sono bravissime persone in gamba, che parlano, senza nessun protestare, va bene sul fiente, basta le dai, destra è una contro una. La finestra la voglio 90 cm, beh, 90 cm come sempre tutti i parapetti delle case, delle finestre sono a 90 cm, mi stai seguendo? Facciamo la finestra a quella misura, quando ti è stata risultava 90 cm, beh, che imbecille aveva fatto, andate a misurare la vula tra 90 cm, che cosa significa la pulizia? Siccome in questa casa si scendeva, c'erano tre gradini a scendere, no? Anche che il risultato di 90 cm la finestra della strada ti risultava 40, 45, 50 cm. Detto che volia 90 cm, era 90 cm, beh, guarda che si misura, no, 45, 90 cm, no, 45, ma quando mai è da uno così tonto da comprendì, se io ripasso a 90 cm dalla carriera, non c'è non arrivi nemmeno a calarsi, per dirti, io sono persone strane tante volte, per carità. Vabbè, giù, purtroppo, così, l'ho piantata la cognata di mio fratello, la verità mi hanno rotto le scatole, guarda, per niente, ti dico anche, che il marito mi ha aiutato a buttare il capo giù, per fare la calata, no, il capo di discesa, e in più mi ha piazzato le scatole, vabbè, praticamente in questa casa non c'era niente, intanto zero, né antenna, né palo, nulla, e ho fatto tutto nuovo, però non riesco a capire una cosa, perché io devo risolvere quello, lei mi ha detto che non gliene frega niente, in cucina rivede tutti, diciamo quasi tutti, tranne Vidiolina, ma il resto rivede tutti, ma non vede media set in camera da letto, non ho capito perché. Il motivo perché, evidentemente, ovvero è sintonizzato da capo, o perlomeno ci sono altri problemi di altro genere, non lo so. Basta, fuori me ne vedi una, faccio l'inquilino, dici, e dopo la bacconi lo bagno. Oh, e allora facciamo. Allora, la misura ricata bene. No. Allora vengo io a pigliare il giornale, prendo la misura, ma facciamo subito per me, allora mi sono senza tu, senza la bacconi lo bagno, è freddo, se vuoi inverno. Ma boh. Bene, gli quattro bacconi, in due lì mi ha già consegnato. Quando sono andato, l'inquilina, vedi, è la giamba, la potevo regalare, i tanti adesini, i tipi, tanti, no? A pagarmi lo bacconi. A chi te la regalava? E mai io l'ho giudicato dallo macione e l'ho giudicato. Chi ti vai a un raio di vaglia? Si me l'hai tirato tu a me, tu gli fa, ma hai detto che ti fai tu subito, e allora mi dai la figli, tu, lo bacconi, tu vai qua dallo macione tu. Boh, te la senti strana, basta, vai. Vabbè, dai, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, purtroppo devo... uscendo a prendere la pantera. E niente, alla prossima, ciao Giulio, Claudio, Marco, ci sentiamo. Ora, già ho più tempo comunque, qualche oretta in più me la posso fare, dai, va bene, ciao, riprendi tu Marco. Ehi. Comunque sì, il cavo SAT va bene, se vogliamo essere pignoli dovrebbe avere anche meno perdita di quello classico da TV, ma voglio spiegare. Vabbè, comunque il cavo SAT, quello sottile, ma è anche Antonio, riserva che è buono, lo usa lui, infatti l'ho comprato, lo compra lui, e niente, il cavo è buono, la carta c'era, ma ha un bel filo anche, è da marito alle temperie, resiste, certo, ma gli passi 30 anni, però già li fa qualche anno. Poi gli ho detto, si ricordi una cosa, che siamo, si può dire, di fronte al mare, questo l'antenna non è che gli duri un'eternità. Lui, io ti dico una cosa solo, prima che vai. Camera mia, no? Abbiamo fatto una derivazione, c'era il partitore, in camera mia non prendevo niente, non prendiamo nessun canale, o se arrivo, insomma, o saltava continuamente. Beh, cambio il modem, cioè il televisore aveva il suo decoder interno, cambio il decoder e vedo tutti i canali, era il televisore che aveva un decoder interno di cacca, detto proprio così. Ok, buona serata. E vabbè, succede, dai, ciao, ciao Giulio, riprendi, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Così è fatto, no, ma comunque già ce ne sono persone in gamba, persone che ragionano, ma la maggior parte delle persone, ma dai, è meglio non parlarne, guarda, è meglio non parlarne. Oh, ti portami i rubetti rossi, gli vacconi, portami i rubetti rossi. Signora, e forse cosa intendi in Russia? Rimontanti alla banco 15 centimetri, 15 centimetri, laghi, rimontanti di vacconi 15 centimetri. Ma cosa ti senti? Rimontanti di vacconi 7 centimetri, non sto facendo 15 centimetri. E mi stavo stessa muovendo, che? Prima tu mi sai che abbiamo fatto così, ma il vacconi si fate 7 quanti 45 millimetri, 70 quanti 50, e quanti 45. E poi con l'altro motivo. Ti porti a fare roba con la voce con l'ottanta, con il centimetro, quando li gruppi di elaborazione, li gruppi insieme a travagliare un legno, tagliare i misuri, ci sono più un po', uno in più, o in manco di misuri, non andrà più, non si può più travagliare. Vai tu e spiegagli, Marco, vai tu e spiegagli certe cose, per carità. E purtroppo, lì, è difficile, è normale, cioè non normale, qui a Sassari, figurate lì, vabbè dai, quelle signore anziane sono le più diffidenti in tutto, ti stanno dietro, stanno a controllare, ma così non va bene, se non insegnano loro come fare il lavoro, capito? Bene, che ore sono? Io mangerei qualcosa veloce, così velocemente, altrettanto velocemente rientro in radio. Claudio, c'è ancora? Sì, però sto facendo cosa, ciao Giulio, un abbraccio, ciao Luca, ci sentiamo tra un attimo. Ok, ciao Luca, siamo qua, c'è anche Natalino, va bene, dai, Marco, buon appetito allora, dai, siamo qua, io intanto passo il microfono a Natalino, vai Natalino. Ciao a tutti, buonasera, dai, io mi assento un po' che devo fare cosa qua, dai, ci sentiamo, perché domani devo fare un lavoretto, ho un'amica, ci sentiamo più tardi, dai. Il lavoretto le devi fare, Deia, ciao Natalia, io vado a mangiare, dai, se no mi tocca poi alle 7 passate, troppo tardi, dai. C'è anche Giulio, dai. Se posso rientro dopo, ok? Ok, d'accordo, Marco. Ciao a tutti, anche a Natalino. Ci sentiamo allora, dai. Va bene, adesso lo guardo la televisione. Ci aspetti un attimo, riprendo subito giù. Un attimino che sto collegando un baracchino. Ok, guarda, aspetto, sono qua in ascolto allora. Ok, un attimino arrivo. Avanti un fischietto, chi è? Questo è un treno, mi cioppala. Ah, oh giù, questo è un treno. Un treno, ma che mi stai abboccando questo treno? buffo, dai. Questa è la novità, eh? 2 anni e mezzo di inibizione a Ranieri, presidente della Juve. Due gare a porte chiuse alla Juve e oltre un'altra gara con una curva chiusa. E più 300.000 euro di multa alla Juve. Non è possibile, non a voi devo proprio danneggiare in tutte le maniere questi bastardi della federazione. Non è possibile qua, per il fatto dei biglietti degli ultra, eccetera. Ma quando è successo questo? Oggi? No, è una cosa di un anno fa, una cosa del genere. Dice che davano dei biglietti agli ultra che non erano consentiti dargli più di tanto, e invece loro dice che li compravano. La Juve sostiene che quelle persone compravano i biglietti, mentre invece loro l'hanno accusato di un traffico illecito nel fatto della distribuzione dei biglietti. 2 anni e mezzo, 30 mesi ad Agnelli a causa dei suoi rapporti non consentiti dal regolamento con gli ultra. Questa, a quanto apprende l'ansia da fonte qualificate, la pena che il capo della procura PGC Giuseppe Pecoraro, quel bastardo, quello lo aggiungo io, ha appena richiesto al Tribunale Federale Nazionale nel processo a porte chiuse per la vicenda ultra e biglietti. La procura ha inoltre chiesto per la Juve 2 gare a porte chiuse, un'ulteriore gara con la curva sud chiusa, e praticamente sono 3 gare con le porte chiuse, e 300.000 euro di ammenda per responsabilità diretta del club bianconero. Incredibile, io della Tabur, quando ero la Juve non avrei più iscritto la Juve in Italia, me ne sarei andato all'estero a fare i campionati stranieri. Cioè noi dobbiamo giocare 2 anni a porte chiuse? No, 3 partite in pratica. Cioè 2 partite a porte chiuse e una partita con una curva squalificata. Capito? 2 anni e mezzo solo di inibizione per il presidente Agnelli, capito? Cioè una squalifica da Agnelli. Sei talmente forte che non ho capito. Quindi Agnelli è 2 anni squalificato, così è? Sì, 30 mesi, 2 anni e mezzo. E non può entrare in campo? Evidentemente non può entrare, sono il tribuno, è ben ovvio, perché tanto gli hanno tribuno. Però non sono cose quelle da accettare, guarda, non sono cose da accettare. È assurdo che si possano accanire sempre contro la Juve, non è possibile. No, non è possibile. Mia figlia è all'Emilia, Juventina peggio di te, all'Emilia. È una cosa impressionante, guarda, ce l'hanno sempre contro la Juve. Non lo sopportano che vince sempre la Juve, non lo sopportano. La cercano danneggiare in tutti i modi, in tutte le maniere. Non è possibile. 2 anni e mezzo di inibizione al presidente. 2 partite a porte chiuse, e dunque ti puoi immaginare quanti milioni non incassa, e più un'altra partita con una curva squalificata, praticamente metà tifosi, e più 300.000 euro di multa, di ammenda. No, non si può, dai, non si può. Mamma mia, guarda, sono... Non so cosa dirti, Giulio, veramente. È una cosa... Non lo so. Io quest'anno la Juve la vedevo già non bene. Adesso con questa botta la vedo ancora peggio. Purtroppo è così, cosa volete dire? Meglio colleghi, se del video mi sta girando 220, c'è scritto tutto questo. No, non è possibile, guarda, me ne sarei andato dalla Italia, già sono andato con l'azienda, in un certo modo, la Fiat, me ne sarei andato anche col calcio, guarda, perché la Juve l'aveva iscritto a un campionato inglese o tedesco, o insomma più straniero, e la Juve dall'Italia l'aveva fatta sparire. Così si erano giocati con la BP quella gente. Non si rendono conto che anche la nazionale, ragazzi, ne subisce la conseguenza, perché da quando non c'è più il blocco Juve la Nazionale sta facendo schifo, e mi auguro con tutto il cuore che non riesca a superare le cose, le partite per potersi qualificare i mondiali. Me lo auguro di tutto il cuore, va. Non c'è niente la Juve, l'Italia con la Juve, ma sarei contentissimo. Percussioni in tutta, sia in Italia che all'estero, come si fa per una battosta del genere? Non capisco perché sono accaniti così, non ho parole, Giulio, veramente, non sapevo niente, guarda. Io non ho visto niente, né ultima ora né nulla, e sono rientrato poco fa dal lavoro, quindi una cosa allucinante. Sì, no. Non è accettabile un trattamento del genere, non è accettabile. E meno male non gli hanno tolto i punti dalla classifica, se no l'avrebbero ancora danneggiata ancora di più. Meno male che non c'entra niente con il discorso dei biglietti, con il discorso campo, diciamo. Non c'entra niente, almeno in quello, se non altro. Ma speriamo che si metta bene a posto e che vinca anche il settimo scudetto quest'anno, così almeno ne diamo la mattina in gambo tutti quanti. Tra l'altro non gioca contro il Sassuolo, non gioca di Bala, lo fa riposare. Giù, non lo so, è una Juve molto, molto strana quest'anno, anche perché, come tu ben sai, ci sono squadre molto molto forti. Vedi la Lazio, vedi il Milan, vedi l'Inter, la Roma che fa il suo lavoro, il Napoli, c'è una buona Atalanta, c'è una buona Fiorentina, c'è un bel campionato. Quindi io penso che con gli scontri diretti la Juve sia in grande difficoltà quest'anno, te lo dico con tutto il cuore. Speriamo io, anche 2 anni fa, ti ricordi quando era 11esima o 13esima, che era dall'altra parte della classifica, per le prime 10-11 giornate di campionato, poi ha fatto tutta la tirata, ha vinto 25 partite mi sembra di seguito, o 23, non me lo ricordo bene, ma una cosa del genere, e ha vinto un campionato alla grande con tanti tanti punti di vantaggio. Speriamo bene, speriamo che si metta a rimettere in sesto, ma comunque dovrebbe, e chi lo sa, comunque già ci sono delle cose da fare veramente. Io penso che in società non ci sia quella serenità di prima, non credo tutto. Il discorso Borucci Allegri per me ha fatto molti danni per conto mio. Sì, ma molti danni a livello societario. Sì, a livello societario, e dunque se la società non funziona, perché il motore principale di una squadra di calcio è la società. Se la società funziona bene, è grande, la squadra problemi non ha nel fare le partite, eccetera. Perché se avesse avuto un pochino più di intelligenza, anziché prendere 40 milioni per dire, tanto per fare un esempio, per Bernardeschi, tra parentesi, che Bernardeschi è un bravo giocatore, d'accordo, o anche 12 per decidere, tanto per essere in tema di acquisti, avesse speso quei soldi, 70 milioni, tanto per fare un esempio, per comprare un grandissimo centrocampista, forse sarebbe stato meglio, ma ci hanno fatto 82 milioni tra Dura scorsa e Bernardeschi, e ancora non hanno giocato in pratica. Perché Dura scorsa ha fatto schifo l'altro giorno giocando il mio corso con il Barcellona. Dura, cioè Bernardeschi ha giocato un quarto d'ora, perché non ha fatto altro, altre partite cosa ha fatto? Una piccola apparizione, Bernardeschi. 82 milioni ancora non hanno giocato in pratica. Io continuo a dire che secondo me la Juventus sta facendo dei passi non buoni, non so, se Carreni di tutta la Germania, Pafagosa non ci compresce. Ma cosa vuoi dire? Io da sempre ho saputo che per costruire una qualsiasi cosa si inizia sempre dal basso, dal fondo. non puoi tu comprare, mi sembra che ha 8 attaccanti, cioè, a parte il Piazza che è ancora fortunato eccetera, altre tante le ha dato i giocatori in prestito alla mia squadra, e ce l'aveva Mandragora e l'ha dato, aveva Caldara e l'ha dato per due anni in prestito gratis, Spinazzola anche tanto, 2 anni gratis, ma al limite se tu li vuoi far crescere questi ragazzi, prestalo per un anno, poi il prossimo anno se proprio non ti serve ancora, non hai ancora un prestito per un altro anno, no, 2 anni, e non avrai mai battezzato, intanto ne hai pagato due, vende a Dani Alves e lo vende senza soldi, vende a Tevez e lo vende senza soldi, ma non è possibile questo, ma io non so, non ce l'ha la testa quella gente. Dove ce l'ha la testa? Ce l'ha nel portafoglio, ce l'ha sicuramente, non so cosa dirti, veramente una cosa un po' così, non lo so, vabbè, io voglio vedere i meriti di questa Juve, voglio vedere i meriti, perché in effetti ne ho già visti troppi, ne ho già visti tanti in 3 partite, il campionato è lungo, vediamo come si comporta, adesso c'è il ritorno, vabbè, che a novembre col Barcellona, vediamo cosa fa con le altre squadre in Champions, vediamo cosa fa sabato, mi pare che giù, contro, non mi ricordo con chi, però voglio vedere anche i meriti, perché in effetti, ti ripeto, ribadisco, ne ho visto già troppi. Sì, non è possibile poter accettare una situazione del genere. Quest'anno sono partiti male, caspita, appena 3 partite in campionato e ci sono già 7 indisposti, non possono giocare, tutti malati, sono tutti infortunati. Poi Obedes, quel tedesco ultimo che aveva preso, quello senza andare a giocare, già infortunato. Loro hanno detto che ancora non era pronto per giocare negli schemi della Juve, invece non è vero, sicuramente è qualche problema fisico, speriamo che si riprenda subito, poi la Juve qua. No. Quest'anno proprio mi sta deludendo molto, la società però, la società, la squadra va bene, può fare quello che può fare, la società mi sta deludendo proprio. Ma tu mi insegni che la società è quella che comanda, Giulio, se la squadra cerca di fare tutto l'impossibile, però nella società c'è qualcosa che dopo che la squadra ne risente, no? Lo sai come funziona, quindi non devo insegnare niente. La Juve è partita con un grande handicap e sono sicuro che si riporterà fino a metà campionato. Voglio citarti un Higuain che ancora non è entrato in partita, non ho capito se deve entrare in partita a metà campionato come l'anno scorso, cioè c'è Dybala già che ha fatto 6 gol mi sembra, più 2, 8, e lui ancora non ha fatto un gol, o anzi uno non ha fatto, però non c'è come gioco, non c'è come niente, io lo volevo con Napoli, una macchina da gol, una potenza, una cosa indescrivibile, qua io non lo vedo, dalla prima partita alla terza io ancora non l'ho visto giocare, il Champions non c'era proprio, non capisco, c'è un giocatore pagato 90 milioni di euro, cazzo, quando deve entrare in partita? Dimmi tu quando deve giocare, non lo so quando deve giocare. No, questo me lo chiedo anch'io. Ma lui è anche nervoso, è nervoso perché non si sente a suo agio, perché la squadra non lo mette in condizione di fare il suo lavoro, il suo mestiere, che è quello di centravanti puro, realizzatore puro. Se tu me lo fai rientrare, andare a forte al centrocampo, io non lo so, ma quando mai? Tu spendi 9 milioni per cosa? Ma se ti senti un centrocampista, non c'è bisogno di spendere 90 milioni, tanto come va a lasciare giocare allora? Mangio qui, ci centravanti, e compriamo un centrocampista, con i 90 milioni li spendi un solo centrocampista come credo. Invece di fare il centrocampista, torna indietro ad andare a forte al pacchetto difensivo. No, non è possibile, guarda, però dipende sempre dal lavoratore, per quanto mi tanto è vero, si sta scocciando, anche se è già scocciato, lui non vorrebbe giocare con lui vuole pallone, dietro l'attacco, perché lui deve stare in area di rigore. In area di rigore, ce lo vengo, sembra un tornante, sembra, non oggi complice, in area di rigore, in area di rigore a favore, se non le date le palle, che palle che lui prendeva quando c'era Pirlo, quando c'era Pirlo, quando giocava Marchisio, il suo ruolo, Bonucci della Valle Bilanci, ma io non Galanci, io ne vengo pochi, vengo solo porcherie per non dire un'altra cosa, capito? Lanci sbagliati, cose allucinanti dal centrocampo e dalle fasce. Non lo so cosa sta succedendo, Giulio, non lo so. Vorrei capirlo anch'io, da sportivo, naturalmente, da sportivo, però penso che quest'anno la Juve non sia né candidata allo scudetto né candidata alla Champions, a nulla è candidata, secondo me, attento, secondo me, poi mi posso anche sbagliare, perché la Juve è una grande squadra, quindi può rimontare come e quando vuole, però attenzione che non è la Juve dell'anno scorso, nel modo più assoluto. Ho perso molto. Qualcuno dice che si porta lo sport. Io dico che è più debole lo sport, è di morto per vari motivi. Non è possibile che una squadra non debba avere, dopo 3 anni, 4 anni circa, non riesca a fare un centrocampo di guerra del vivo. Tutti questi campionati li ha vinti perché c'erano i fuoriclasse e ci sono in attacco i fuoriclasse, ci sono grandi giocatori. Però quindi se tu mi spremi a un certo momento anche di buono, più lo spremi è meno tenere i trupi dopo, e quelli sono loro. Non è possibile, tu non puoi far giocare gli attaccanti e i difensori per cercare di dare una forte a pacchetto difensivo. No, non è possibile, assolutamente. Vado a parlare poi, quest'altro Benatiaga, cioè, quando era con la Roma era un demonio, giocando con aiuto con asino di prima qualità. No. Romani, altrettanto, Romani, 3 anni con la Juve ancora non ha fatto un minimo di progresso. È rimasto così, sarà forse perché non ha fatto mai giocare titolare, questo non lo so. Sono tutte cose che non deve spiegare a lei, queste cose le deve spiegare a lei, perché è lui l'allenatore. Vado a parlare poi del fraseggio che fanno lì, nel proprio campo, con questi passaggetti indietro, tutto ticchettacco, orizzontale, pompa, tutti passaggi lenti, ma non c'è un minimo di velocità, non c'è un contrasto, non c'è un raddoppio di marcatura, ma non è possibile, a calcio non si deve giocare così, ma io me lo giocavo così, ma io me la Juve, e oggi invece mi bari un bottone, mi bari un grande. No, ma già da diverso tempo la Juve gioca così, con questi rientri particolari, questi tocchi indietro, cioè centrocampo c'era quando comandava Pirlo, che ti mandava la palla sul piede, se ci fosse stato Higuain con Pirlo al centrocampo, regista, io penso che la Juve sarebbe stata imbattibile, ma quando non c'è il centrocampo, non c'è un regista, non c'è uno che comanda, non c'è niente da fare, ha provato Chedira, ha provato Marchisio, chi è l'altro che ha provato, quello che ha comprato, non ve ne è centrocampo, la Juve non ne ha, e sta anche demolendo la difesa, perché la difesa è molto debole. Ma cosa vuoi Bonis, Turaro, mandi voi andare, chi deve andare Turaro, mandi voi andare. Sì, ma la cosa più bella è, non penso a Turaro a fare un difensore, quando è uscito nel figlio, che anche per lui, anche se ha fatto un buon primo tempo, anche per lui però ha qualcosa da recriminare, perché mi ricordo quel passaggio che ha fatto, va bene che era sottolato, e ha fatto quel passaggio in aria così, sui piedi di Dembélé, ma fortunatamente è intervenuto Alessandro, in qualche maniera è riuscito ad impedirgli di tirare in porta come si deve, in maniera solitaria, diciamo così. Però quello non erano stati 3 gol, erano stati 4 con Barcellona, non guardavo che si dica. No, anche quello, dice, si è addoppato, cavalo subito, cosa ti va a fare? E poi metti pure a Solaro, non lo so. Guarda, io ho visto molte volte la primavera, ci sono i giocatori, è la primavera che giocano, meglio di questi titolari che stanno tirando alla squadra, la prima squadra, veramente, guarda, ce ne sono tanti. Non hai visto quello vabbè, adesso si è scritto a Iguai, e me lo metti tu al posto di Iguai. Ma dai, aiuto, ma dai, grazie, e tutto questo perché? Perché ti ha lasciato sfuggire Keita, ti ha lasciato sfuggire Shiki, ti ha lasciato sfuggire, lo sai che ti serviva un sostituto di Iguai, perché se disgraziatamente si infortuna Iguai, non abbiamo da ricambio, devi adattarti alla vecchia maniera, cioè Mandzukic di centravanti di primo ordine. Però non è Iguai, il discorso è quello, non è Iguai, per quanto ha fatto un discorso che Mandzukic quest'anno è svoltato, no? Ha tutte le energie le ha sprecate lo scorso campionato, facendo quel gioco di rientranza difensivo e da attaccante, perché l'hanno spremuto al massimo, e quest'anno giustamente deve recuperare, ma ce la farà recuperare, no? Infatti non ha giocato col Barcellona Mandzukic, perché? Ma cos'è? È fortunato? È fortunato, allora. Mandzukic è fortunato, guardando non ha giocato perché ha squalificato. Tanti altri. Marchisio, speriamo che si riprenda Marchisio almeno. Io, se Marchisio si riprende fisicamente in maniera totale, io ho fiducia in Marchisio, perché Marchisio lo sappiamo che cosa ci ha dimostrato, ma bisogna vedere però, perché vicino al ginocchio, anche se tu guarisci fisicamente, sei guarito, però mentalmente per guarire una persona. Io l'ho avuto anch'io un infortunio così a ginocchio e so che cosa significava e cosa significa, perché mi era guarito, ma poi avevo sempre quella paura che in un altro contratto potessi fare di nuovo male, e abito qua, e sono tante cose, non è semplice, no? Lo stesso Montiero, quando si è infortunato, te ne cuo, si è impiegato 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, per riprendersi alla grande come era prima, purtroppo è così. Marchisio è un grande campione per me, rimane sempre un grande campione, però il problema è che l'infortunio è abbastanza preoccupante, quindi sicuramente l'allenatore deve riprendere fiducia, lui deve dare fiducia all'allenatore stesso, ma vediamo, non abbiamo centrocampo, niente a fare. Ho sentito il nome di Iniesta e stavo saltando di gioia, sembrava che la Juve potesse concludere con Iniesta, secondo me è il miglior centrocampista al mondo, quindi ha detto basta, fatta, adesso fa un po' di pulizia, divulga tutti gli anticipito, prende Iniesta e così abbiamo fatto il campo, il centrocampo proprio alla grande. E invece è stata una smentita, non ho capito da dove sono uscite queste cose. Sono i soldi giornalisti che non sanno cosa scrivere per riempire la pagina del giornale, allora inventano tante cose. Addirittura si parla che aveva addirittura rinnovato Iniesta con Barcellona, pensa un po', ma bisogna vedere se è vero, quindi è pazzesco, ma si era parlato tanto di Isco ti dava tutto il Bambini, lui soprattutto non te lo poteva dare per le condizioni pessime di Billy, perché Billy con gli Bambini andano molto male, allora Isco gliel'ha pregato il posto, nonostante che Billy l'ha pagato 100 milioni, lui l'aveva pagato qualche anno, però era un momento questo per Billy poco buono, e allora Isco, che l'abbiamo visto, ci ha fatto tanto il giochetto, e a lui via, e l'ha fatto lui, non lui, e poi a proposito, non è solamente questa sconfitta con Barcellona, è 3-0, e ricordiamoci che ha perso 2-1 anche nella, come si dice, nella trasferta che aveva fatto in America prima del campionato, no? Per la condizione, per acquisire la condizione sia tecnica che tattica, erano andati in America, hanno prestato i soldi, però ovviamente non veniva, e il Barcellona aveva giocato, e aveva perso 2-1 punitivi. È vero, sì, mi stavo dimenticando, è vero anche quello. Però, ma io finale, Iniesta, Juve si può fare, e quindi questo era l'articolo. Poi stavo leggendo e sembrava che ci fosse qualcosa che promettesse bene. Ha detto, ma con Iniesta al centrocampo la Juve cambia, perché Iniesta c'è piedi d'oro, a parte il fatto che nonostante l'età che abbia riesce ancora a dominare molto molto bene, visto col Barcellona cosa ha fatto. Però smentite, solo smentite. Ora io spero che la Juve riesca a mettere a posto il centrocampo, le fasce e rientrare tutti. Rientrare tutti con una mentalità vincente come è da Juve, perché a questi livelli giù, te lo dico con molta sincerità, non vinciamo nulla. Sì, anche io la penso così, se continua così non c'è niente da fare. Se facciamo un pochino i compiti, da quando è iniziato il calcio d'agosto, diciamo, la famosa preparatoria, ha giocato con Barcellona a peso, ha giocato con Tottenham e a peso, ha giocato con la Lazio e Supercoppa a peso, ha giocato con Barcellona a peso, ha giocato con l'altra squadra, con l'altra chiesa, ma forse ha vinto solo con Monaco, mi sembra che abbia vinto 1-0, se ricordo bene. Ma tutte le altre partite, parlando di squadre di un certo livello, le ha perse tutte, solo che questo è il campionato, vabbè, ha giocato con le squadre bene, fortunatamente è prima classifica. Però bisogna vedere se così, appunto, perché quando poi comincia ad arrivare le squadre forti, e non lo so io come va a finire. Squadre deboli, te l'ho già detto che in Serie A non ce n'è, l'Inter sta dimostrando di essere una grande squadra quest'anno, sta andando alla grande con poche perdite, molte molte vittorie, è prima in classifica assieme alla Juve, il Milan ha fatto un mezzo passo falso, ma non è detto, 4-1 con la Lazio, però rendiamoci conto che il campionato di quest'anno non è facile come gli altri anni. Ok, perciò sono state squadre che si sono praticamente rinnovate, hanno fatto sì di mettere a posto tutto per poter competere in Serie A e non solo, e quindi la Juve non deve pensare che è la numero uno. Io non ci penso neanche minimamente, quest'anno la Juve prende colpi forte, te lo dico io Giulio, in Serie A prende colpi forte. Sì, se continua così, sì. Se non si mette in carreggiata, sicuramente prende parecchie battute. Non lo so io, non è possibile. Tutti i gol subito l'anno, tra il campionato, anche ha subito tutti i gol, per conto mio, e anche conta, naturalmente, perché questo è a zero. Non solo dimenticano facilmente, quindi non si può dimenticare, assolutamente. Facciamo poi adesso la partita di campionato con Barcellona, l'accusa era che eravamo in agosto appena, e dunque le squadre stavano preparando. Ma anche il Barcellona, porca miseria, si stava preparando. Ma spiegami per quale motivo il Barcellona ha vinto puntuale all'inizio del campionato in piena efficienza fisica e di forma, mentre invece la Juve ha perso una parte dei tre mesi, tutte le volte non entra mai in forma quando inizia il campionato. È questo che mi dà fastidio. Ma cosa stanno pensando di fare? Ma Giulio, quelle squadre lì hanno secondo me una diversa preparazione. Noi siamo in parole povere dei smidollati, per non dirti un'altra parola, capito? Cerchiamo di partire in quarta e poi arrivi al campionato e sei in prima, perché ti ho già detto che a me Higuain, Shishinanda o Shishinomandani non mi fa né caldo né freddo, capito? Perché una persona, un giocatore, un uomo pagato 90 milioni di euro, 180 miliardi, che possa giocare a quei livelli, ma io mi sarei sotterrato. Sì, in effetti sì, non è possibile. Allora, l'unica attenuante che ha, che lui dice, ma se mi arrivano due palloni a partita, come faccio? Io se mi arrivano due palloni, non è che due palloni che posso buttare dentro per forza tutti e due. Ma non me ne devono mandare anche, lui ha una certa attenuante, ce l'ha. Non so io, giocatori. Prendiamo l'esempio di Mumbri. Mumbri è diventato un fenomeno, è diventato quest'anno. E pensare che Mumbri era aiuto. Torino, poi Torino se ne è andato lui all'estero, rientrato, ecco, adesso con la Lazio sta facendo famiglia, sta giocando fortissimo, bene, bene. Per quanto riguarda il discorso del Milan, il Milan sì, ha fatto due partite già, 5 gol, certo l'altro sì, ma quelle erano due squadre che devono andare a giocare a campo del Sardegna qua, in Foso, a Sassari. Quando fuori da vedere, perché anche il Milan ha dei buoni giocatori, vedi? Ha dei buoni giocatori, però io penso che anche il Milan di 14 ne prende tanto lo stesso, perché non è alla testa dell'Inter, tanto meno del Napoli, come lo parliamo, Napoli è una grande squadra, ma ci lasciamo impressionare dal fatto che ha preso adesso in Russia, no, con quella squadra russa, no, in Coppa, allora Napoli è tutto un altro discorso, perché sono sicuro che Napoli si riprende e riesce a passare il turno gratuitamente. Bisogna farlo il gioco. Ho visto il Napoli che c'è un gioco micidiale. Adesso tu prendi il Napoli, ti insegni e col Napoli fa faville, ok? Come Candreva, come Mertens, eccetera. Come mai in Champion giocano diversamente? Non riesco a capire. No, non lo so. Non si spaventano questa gente quando giocano con le squadre straniere. Per non parlare fuori il discorso, io ce l'ho sempre in mente da anni. Noi andiamo all'estero, compriamo dei giocatori pagati un sacco di soldi, la maggior parte delle volte sono dei gruppi, nel vero senso della parola, sono, però vengono qua, si imparano a giocare anche all'italiano, poi andiamo là e ci battono. Non è possibile. Quando poi si ritornano anche alla nazionale, i giocatori vengono qua, gli stranieri, poi vanno e giocano alla nazionale, ci fanno bene. L'Italia è una scuola di calcio per i giocatori blocchi di stranieri, perché sono dei blocchi, veramente, nel senso sono tutte delle pippe qua. Bisogna aspettare, Giulio, non so cosa dire, secondo me bisogna aspettare e vedere dando un po' fiducia, perché la situazione non è bella, assolutamente, però ti ripeto, la Juve lo sappiamo tutti, quindi può cambiare carattere, gioco come quando vuole rispetto a tutti gli altri. Dobbiamo vedere se effettivamente si riesce ad avere questo risultato, se si continua a vincere, perché vincendo sta vincendo, ma con risultati molto molto mediocri rispetto alla squadra che hai capito. Che si prenda subito, che risolva immediatamente, perché è una condizione un pochino troppo scadente, secondo me. Se è vero che il sole si vede da mattino, il sole ancora non l'abbiamo visto in questa squadra quest'anno, per cui ci sarà da faticare tantissimo. Non per niente, no? Solo per il fatto che soprattutto per Bonucci, che secondo lui è andato lì e già lo sta facendo, lui l'allenatore, il capitano, sta facendo lì a Milan, fin quando non si ricava di luce anche lì, cioè che non è possibile che possa accettare l'allenatore l'intrusione di un giocatore così, fin quando non si vedono i colleghi, i compagni, bene, perché ce ne sono diversi che si giocatori bravi, tipo Andre Silva, l'altro, poi il ragazzino, poi il controllo, c'è un bravo giocatore, altro che tutte le volte che l'ha messo a giocare ha segnato, veramente, sapete che ne sono i giocatori iscritti, però non penso che c'è una squadra alla testa e in grado di poter vincere il campionato. Io comunque al massimo con raggiungere sia il quarto posto, esagerando anche. Vabbè, sono d'accordo con te, ma io io la penso in quella maniera lì. Si potrebbe dare di più, come la canzone, molto molto di più. Bisogna essere un po' più affattati. Ti ricordo che i due gol che ha preso il Milan li ha presi per colpa di Bolucci, quindi bisogna stare molto attenti anche lì. Invece così, per non parlare poi della partita che ha fatto il Nazionale, per carità, Bolucci si esaltava quando abbiamo fianco gli altri compagni che aveva prima, ma quelli che oggi, lasciamo prendere, anche lui ne prende la tante in battaglia. Solo che lui è molto presuntuoso, ha la mania del comando, vuole comandare lui. Magari un giocatore, diciamo che prende 7-8 milioni al mese, cioè all'anno di stipendio, io sinceramente ritengo che quei soldi non li vale assolutamente pubblico. Ma non li vale adesso, ma non li valeva nemmeno quando era con la Juve, nonostante che aveva due difensori a fianco, no? di grande valore, e lui si esaltava anche per quello. Ma adesso che si ritrova un po' solo, lasciamo stare. Un attimo giù. Ok. E beh Marco, cosa mangiato fai? Caspita, questo è pranzo lungo. Data lì, mandato via là in ospite. Marco, lascia il cannonau, Marco, lascia il cannonau. Chi era? No, nessuno, io stavo chiamando Marco. E dice che rientrava dopo aver pranzato. Ma mi sa che sta pranzando troppo sta mangiando stasera. Va bene, comunque ti ripeto, io dico sempre, Serie A vinca il migliore, la Juve è all'altezza di poter fare tanto e lo sappiamo, è prima, non mi posso lamentare, però sta giocando male, forse perché siamo a inizio campionato, non lo so ancora, c'è una fase di assestamento, ma io voglio vedere i vecchi, Higuain, Dybala, voglio vedere Mazzo, qui si bella attivo, Quadrado, Lichtsteiner, voglio vedere i vecchi, quelli che a me mi hanno dato tanto, però ancora al momento non li vedo, nonostante Dybala abbia già segnato, abbia fatto dei bellissimi gol in Serie A, eccetera, però andiamo in Champions, si trasformano, non riesco a capire se veramente la colpa della perdita con Real Madrid di Bonucci, col casino che è successo, se la perdita della partita è stata dello spogliatoio in generale, non lo so, ancora non ho fatto uno più uno perché conti non ce n'è. Ovviamente qualcosa è successo, ma comunque ormai quello è passato. Pensiamo adesso al prosieguo del campionato, che è quello che ci interessa, così maggiormente, almeno al momento, finché non si ritorna a fare le partite di cerchio. Adesso vediamo domenica cosa succede, per giù ragazzi a giocare a Reggio Giornalmente, questo è l'ora del caldo, ma vediamo bene che a Reggio Emilia ci sia un pochino di temperatura idonea, e non la scusa sarà anche il caldo, perché a giocare con Sassuolo non è che sia stato facile, a mezzogiorno e mezzo a giocare. Aspetta un attimino, mamma mia, questi messaggi, sono uscito poco fa, ancora continuo a mandarmi messaggi al telefono. Aspetta Giulietto. Ok, fai. Vabbè, così, dai, giù, io ti saluto che mi preparo, così mi sistemo il cane, eccetera, eccetera. Intanto ogni tanto mi mandano messaggi ai colleghi di lavoro che abbiamo dei lavori un po' in sospeso, quindi ci stiamo messaggiando uno con l'altro. Eccetera eccetera, dai, se ci sei a dopo, altrimenti ti auguro buona cena, buon tutto e alle prossime. Saluto Marco, sei in ascolto, Natalino e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10, ok? Ok, va, ciao, allora ci sentiamo domani eventualmente, va bene così, attenti pure, ci sono problemi, io adesso scendo un attimo giù per portare a risalto senza qualcuno. Poi, a proposito, si era fortunato anche Cucci, adesso non voglio bere la Bonucci senza Cucci, prima aveva anche l'appoggio di Cucci, 6 mesi ne ha Cucci, mi si è fortunato al ginocchio, per cui teniamo bene per il ragazzo, non fa rovina, per il ragazzo. Ma voi, ciao qua, grazie. domani, ciao. Ciao Giù, dai, speriamo bene che se ne prenda tutto alla grande, ok? Ciao. Ciao, ciao, ciao.